Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno, bentrovati a tutti quanti a Salva Danaio, buona giornata da Deborah Rosciani. Decisamente oggi la giornata è migliore di quella che in questi minuti stavamo vivendo ieri, anche se per la verità non tutta, l'attenzione si è allentata completamente. Adesso ancora c'è qualche turbamento sulle piazze finanziarie, sul mercato obbligazionario, però intanto per quello che riguarda la borsa almeno delle provine tecniche di rimbalzo sono state tentate. Milano è partita bene, è arrivata a guadagnare 3,5 punti e poi ha ridimensionato il suo guadagno, adesso è a +1,60. Stanno tentando di riprendere quota i titoli bancari, ma anche molti dei titoli industriali, perché ieri, come sapete, sono stati tutti indistintamente bastonati. Le altre piazze europee invece sono un po' più prive di entusiasmo. Parigi è sulla parità, Francoforte +0,4, Londra addirittura negativa per lo 0,29%. L'euro sul dollaro stamattina è partito al di sotto di 1,35, adesso è 1,35,78. Ma soprattutto sul mercato obbligazionario cosa succede in questa giornata? Succede che intanto c'è stato l'esito positivo per l'attesa asta di bot annuali organizzata questa mattina dal Tesoro, peraltro ieri alla luce dell'effervescenza della giornata, chiamiamola così, si erano anche propagate voci che addirittura il Tesoro oggi potesse cancellare questo appuntamento con il mercato. Non solo non è stato cancellato, ma si è chiuso anche positivamente per quello che riguarda l'importo collocato, 5 miliardi di euro a fronte di un mercato che chiedeva 10 miliardi di titoli italiani. Ma il mercato è stato anche piuttosto esigente, perché il rendimento che il Tesoro ha dovuto riconoscere è stato del 6,08% lordo, ancora sui massimi dall'ottobre del 97, e quindi insomma questo è stato un segnale che è stato di nuovo ricolto dal mercato in termini negativi. Infatti è stato proprio in concomitanza con l'asta dei titoli di Stato che il mercato azionario ha ricominciato a scendere. Cosa è successo invece sull'altro versante, sullo spread fra BTP e Bund e sul titolo delle decennale italiano? Succede che stamattina, in avvio di contrattazioni, di nuovo ci ritrovavamo ai piedi di ieri, 570 punti base di differenza fra il decennale italiano e quello tedesco, e il rendimento appunto del titolo decennale che si attestava al 7,39%, ed erano su livelli molto alti anche le altre scadenze più brevi. Poi c'è stato un rallentamento di questa corsa, il rendimento del decennale è addirittura per un attimo ritornato sotto il 7%, intorno al 6,97%, lo spread fra BTP e Bund si era ristretto sui 530 punti base e poi ha ricominciato a risalire di nuovo, 520 scusate, per poi risalire adesso intorno ai 530. Insomma, non è che con la promessa che Mario Monti diventa capo del nuovo esecutivo entro breve il mercato si sia rassicurato completamente. Adesso c'è un altro banco di prova importante per il nostro paese, le misure per la crescita. L'Unione Europea è rigidissima su questo versante, per cui vedremo se questo governo di urgenza, poi chiamiamolo come vogliamo, riuscirà a portare a termine gli impegni presi in sede europea appunto dall'esecutivo Berlusconi. Detto questo, in tutto questo raccontare continuamente di montagne russe dei mercati, chiaramente ci sono anche famiglie che un po' si sono preoccupate, che devono riorganizzare le proprie scelte di risparmio e di investimento. Che cosa devono fare, che cosa stanno facendo, che cosa stanno pensando in queste ore? Intanto vorrei che voi ce lo raccontaste all'800240024 o al 349-238-6666 se ci volete scrivere. Ci potete scrivere anche all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Stamattina un bel parterre di ospiti per confrontarci su questi argomenti. Moria Longo del Sole 24 Ore. Moria, ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti. Bentornato. Grazie. Oggi la prima pagina del Sole 24 Ore è sicuramente quella che ha attratto di più l'attenzione dei lettori. Gli altri hanno avuto delle prime pagine, senza nulla togliere ovviamente agli altri autorevolissimi quotidiani. L'attenzione dei lettori, fate presto, un messaggio molto chiaro appunto che è stato a caratteri cubitali. Esatto. In più tante iniziative speciali, c'è di nuovo un'edizione particolarmente rafforzata del manuale antipanico del Sole 24 Ore, una guida a tutto ciò che è possibile fare adesso a seconda degli strumenti di investimento che si detengono in portafoglio, perché chiaramente poi non tutte le ricette valgono per tutti, ognuno ha la ricetta a seconda delle proprie esigenze di risparmio. Giancarlo Magri, promotore finanziario di UbiBanca, buongiorno e bentornata a Salva Danaio. Buongiorno a tutti, grazie. In genere con Giancarlo facciamo queste puntate nel bel mezzo dell'estate oppure verso la fine dell'anno, facciamo il check-up del portafoglio. Qua c'è un'edizione straordinaria di Giancarlo Magri che probabilmente in questi giorni si starà dilettando nell'esercizio della riorganizzazione del portafoglio della propria clientela, ma magari non è neanche vero, non lo so, poi ce lo racconterà. Davide Pasquali, presidente di Farus SICAV, buongiorno. Mi buongiorno sente? A tutti. Buongiorno Pasquali, perché ho richiamato Davide Pasquali, qualcuno di voi se lo ricorderà, perché quando è scattata la crisi greca, un anno e mezzo fa circa, quando avevamo le prime preoccupanti avvisaglie che poi si sono protratte così a lungo nel tempo fino a degenerare con la situazione di questi giorni, Pasquali ci cominciava già a dire, sul titolo di Stato italiano non sono tanto convinto, insomma lui la sua ricetta di cautela ce l'aveva già elargita in quel frangente, devo dire che il mercato gli ha dato un po' ragione. Anche se io, e lo ricordo ancora senza alcun problema, mi ero anche un po' arrabbiata rispetto ai toni allarmistici che aveva così un po' espresso in quella circostanza, e però siccome oggi Pasquali ha una visione diversa rispetto all'atteggiamento che bisogna adottare nel titolo di Stato nei confronti del titolo di Stato italiano, appunto volentieri abbiamo colto appunto l'opportunità di reinvitarlo di nuovo a Salva Danaio. Più tardi ci collegheremo con Luca Felli, responsabile bond e valute di Prima SGR, che ci racconterà cosa succede in questi giorni nelle sale operative delle SIM, delle SGR e quant'altro. Allora, con chi cominciamo? Moria, avevi mai vissuto una giornata come quella di ieri sul mercato? No. Dal punto di vista giornalistico, ovviamente. No, ne ho vissute di particolari. Ricordo quando fallì Lehman Brothers, fu una giornata abbastanza anch'io sono ritornata particolare, indietro, ma non c'era lo stesso umore. Io ieri sono rimasto molto colpito perché per lavoro ovviamente parlo con operatori, investitori non solo italiani ma anche esteri, anzi ieri ho provato a chiamare soprattutto quelli all'estero e sentivo veramente un umore molto nero. Ieri quello mi ha particolarmente colpito, perché la sensazione fosse che ieri l'Italia avesse rotto gli argini, appunto c'era quel 7% che infatti, era un po' un, anche perché un da mesi stiamo dicendo che non appena si fosse toccato questo 7% si sarebbe dovuto fare automatica richiesta di aiuti al Fondo Salva Stati in realtà farei però un passo un attimino indietro, perché è vero che c'è la soglia del 7%, Banca d'Italia ha detto che il debito sarebbe sostenibile anche all'8%. Sì. Va detto che il debito italiano è molto grosso e ha una durata molto lunga rispetto agli altri, più di 7 anni. Questo cosa vuol dire? Che un picco di 7% è come se in una sala dove ci sono 1000 persone, l'età media è 40 anni, ne metti uno di 120 anni. L'età media non cambia più di tanto. Certo che se tutti i quarantenni vengono sostituiti da 120enni, allora l'età media aumenta. Questo cosa vuol dire? Che non è il picco che spaventa per quanto riguarda la gestione del debito, ma se rimangono questi livelli. È la paura che si possa quello perpetuare. Che spaventa però è un'altra cosa, è l'effetto psicologico, e allora è quello che ieri mi spaventava sentendo anche gli operatori all'estero, perché se effettivamente inizia a insinuarsi la convinzione che l'Italia abbia seri problemi e non ce la faccia, allora gli investitori non arrivano più a investire titoli di Stato, già li hanno scaricati abbondantemente, allora è quello il vero problema. Il problema è la fiducia o la sfiducia nel titolo di Stato italiano, e a questo punto quindi il problema è la fiducia o la sfiducia nel governo italiano, che abbia la capacità di fare o non fare determinate cose. È per questo che oggi c'è il rimbalzo con la speranza che arrivi Mario Monti al governo, però è un rimbalzino? Perché poi Mario Monti, che ha tantissima credibilità ed è la persona giusta probabilmente, però a questo punto deve dimostrare se per fare le cose. Dirò di più, chiederà lacrime e sangue a tutti, e questo lo dirò lo di sappiamo. Più che ieri sera l'ultima telefonata che ho fatto con un hedge fund americano, questa persona mi diceva: guardate che dal nostro punto di vista la manovra che sta provando il governo adesso, che è una cosa buona e giusta, ma non è più sufficiente, cioè adesso serve un qualcosa di, a prescindere non è più sufficiente per raggiungere il pareggio di bilancio perché non c'è più la crescita economica, ma non è più neanche sufficiente a livello psicologico, il mercato si aspetta un segno di rottura forte, che può essere una patrimoniale o qualunque altra cosa, ma che dia un segno forte, dopodiché dopo quel segno forte si imbastiscono tutte le riforme strutturali che servono, ma se non c'è un segno forte di rottura, un colpo, è difficile che riguadagnare la fiducia sui mercati, perché ripeto, un giorno dei tassi al 7% ce lo possiamo permettere, due giorni ce lo possiamo permettere, ma un mese, due mesi, tre mesi, un anno, no, è lì che bisogna intervenire. Giancarlo Magri, allora, mentre naturalmente Moria Longo intervista i gestori di hedge fund americani e quindi esprime al meglio le sue capacità giornalistiche, lei in questi giorni si starà dilettando, immagino, forse non so quanto volentieri, nella gestione delle emotività, forse della sua clientela. Insomma, per chi le ha chiesto, adesso a prescindere dai suggerimenti su come comportarsi in questo momento, ma per chi le chiedeva spiegazioni su quello che stava succedendo, che cosa diceva? O che cosa sta continuando a dire? Perché non è che siamo... Cioè, una situazione di questo tipo mi ricorda un po' quello che è successo nel 92, quando mi ricordo i BTP... Ma già lavorava, che è giovanissimo? Non è un complimento, ma è vero comunque, adesso a parte gli scherzi. Comunque, quindi... lavoravo in banca. Io mi ricordo il BTP, il 2023, che a quei tempi era il trentennale, con una cedola al 9%, era arrivato a un prezzo di 65%. E c'era un elevato timore anche di un crollo del sistema Italia. Mi sembra di rivivere questi momenti. Magari in quel momento ero all'inizio della mia attività, eccetera, quindi non l'ho vissuto in modo diretto, anche perché sei dipendente bancario, non hai la responsabilità diretta sui clienti come promotore. Però mi è sembrato di tornare in questi momenti dove, passato quella fase, dopo siamo rientrati comunque nell'Unione Monetaria Europea e poi abbiamo fatto il cammino verso l'euro. Comunque mi sembra di rivivere questi momenti coi clienti, da settembre che ho rifai il giro dei clienti, rispiegando anche i rischi, che anche cioè, oggi la cosa nuova è questa. Anche un titolo di Stato che fino a ieri era considerato il sicuro, il tranquillo, quello che non mi dava nessun problema, mi faceva dormire tranquillo, anche il titolo di Stato comporta dei rischi. Il rischio può essere quello di venderlo prima della scadenza. Se io oggi vado a vendere un titolo che ho comprato a classico CGT 2015, che era considerato un titolo con un livello di rischio bassissimo, a metà anno quotava 99 punti, oggi quota 85-84, cioè con una perdita del 15%. Quindi, una volta spiegate tutte le caratteristiche dello strumento di investimento, che oggi ha magari dei rischi diversi rispetto al passato, rispetto a quelli che erano le nostre convinzioni, lei comunque sta in questo momento cercando di mantenere la posizione. Ecco. Poi l'importante è non avere il portafoglio al 100% in titoli di Stato italiani. Quindi ritiene giustificata questa grande fuga che comunque anche molti investitori internazionali stanno adottando nei confronti dei titoli del debito italiano, e perché un risparmiatore piccolo dovrebbe fare diversamente? Cioè, anche il risparmiatore piccolo deve iniziare a ragionare dove ho i miei soldi, il rischio che ho in carico, quindi oltre ai titoli di Stato ci sono anche i titoli bancari, le varie obbligazioni che ho in portafoglio, analizzare tutto e vedere poi come modificare il portafoglio, non subito oggi, perché fare le mosse nella piena emotività alla fine porta grosse perdite. Ma questo nuovo rischio lei lo sta facendo assumere in questo momento, cioè, oppure scoraggia i suoi clienti nel farlo? Dipende quanto ha uno in titoli di Stato, cioè se uno ha un 10% e oggi vuol comprare, aggiunge un 10% sui titoli di Stato italiani, a queste condizioni, a questi tassi si può ancora fare, lei ritiene? Mi auguro, va bene. Altrimenti la mia pensione non so che... E a proposito di pensione, peraltro, proprio questa è la preoccupazione di Antonio da Salerno e Franco da Brindisi, che sono pronti ad intervenire in diretta. Chiedo loro solo un paio di minutini di pazienza, andiamo adesso in pausa, previsione del tempo e un po' di pubblicità, poi ritorniamo. 800 24 00 24 è il numero verde per confrontarci con voi sui momenti difficili che il nostro mercato sta vivendo da qualche giorno a questa parte. Ottobre era andata benino, insomma, ma novembre davvero da dimenticare. Speriamo che almeno a Natale possiamo portarci a casa un regalo di serenità, non dico di tanti soldi, perché qua mi pare che non ce ne siano più tanti da godercene o da spendere. Eccoci di nuovo in diretta, stiamo ridendo con tutto il rispetto naturalmente di molti messaggi che arrivano da parte di molti voi ascoltatori, appunto qualcuno veramente esprime dei giudizi pittoreschi, poi se riesco magari qualcuno ne leggo. Detto questo, stamattina ci stiamo riconfrontando di nuovo sui temi dei movimenti di mercato visti negli ultimi giorni. Non ci attacco nessun giudizio, perché sennò gli ascoltatori mi massacrano sempre, ma tra l'altro c'è uno che dice: ma non dia giudizi su quello che dice. Ma stamattina mi sembra davvero di aver fatto un resoconto molto neutrale di quello che è successo sia ieri e di quello che sta succedendo questa mattina, giornata in cui il mercato tenta di riprendere quota. C'è stata una buona riuscita dell'asta di botta annuali questa mattina, perché 5 miliardi collocati dal Tesoro sono stati tutti ampiamente collocati, appunto, e anzi la domanda era molto più alta, però i rendimenti che il mercato chiede sono contestualmente appunto altrettanto alti, oltre il 6% Londra, ancora lordo. Stamattina ci stiamo confrontando con alcuni ospiti su soprattutto che cosa è necessario fare adesso, se è necessario per chi risparmia ovviamente riorganizzare il proprio risparmio, se magari aveva un portafoglio molto esposto nell'obbligazionario italiano, è il caso di riprendere posizioni diverse, guardare altrove, fare un check-up appunto delle proprie esigenze, e soprattutto stiamo anche di nuovo un po' monitorando quello che accade tra le sale operative. Tra un po' ce lo faremo raccontare direttamente da un operatore. Prima di tutto però cominciamo anche a sentire gli ascoltatori. Wanda da Torino, io non vedevo l'ora di sentirla. Wanda, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Avete chiesto se ci siamo riposizionati. Io per il momento non ho riposizionato niente, però ho comprato dei buoni del Tesoro. Ho risposto all'appello di Mellani e lo trovo fondatissimo. Cioè, il Giappone, con un debito molto più alto del nostro, non è minimamente sfiorato dalla speculazione internazionale, perché la quasi totalità del debito stato giapponese è posseduto da cittadini giapponesi. Noi invece siamo espostissimi verso l'estero, solo mi pare il 13% dei buoni del Tesoro italiani sono posseduti dalle famiglie italiane, poco di più dagli enti, da banche, eccetera, e più del 50% è posseduta. Sì, non credo che esattamente, Wanda, le percentuali siano queste. Detto questo, non cambia. Se lei ha fatto un'operazione in perfetta coerenza con quelle che sono le sue esigenze, le sue convinzioni, non c'è nulla di male. Noi peraltro abbiamo fatto un gran parlare di questa iniziativa, di questo imprenditore toscano negli ultimi giorni. Qualcuno la sposa completamente, lo fanno piccoli risparmiatori, lo hanno fatto grandi imprenditori, grandi banchieri. Qualcuno invece non è convinto di questa iniziativa, ma l'importante è che ci sia dibattito, che ognuno faccia le sue scelte completamente. Certo. Comunque, consapevolmente, volevo fare una piccola osservazione a proposito delle lacrime e sangue che Monti ci chiederà. Secondo me Monti chiederà cose severe, ma non necessariamente lacrime e sangue. E comunque potrebbe sicuramente addolcire la pillola se distribuisse un po' più equamente queste lacrime e questo sangue. Per esempio con la patrimoniale, per esempio con la trasparenza dei pagamenti, pagamenti elettronici, non più pagamenti in contanti. Lo so, ma lì, Wanda, è colpa nostra però, purtroppo, perché veramente le iniziative per rendere tracciabili tutti i pagamenti ne sono state prese con le misure antiriciclaggio e quant'altro. Qui la colpa è nostra, che proprio ci ostiniamo a voler pagare l'idraulico piuttosto che quello che ci viene a sistemare la lavatrice in nero, perché comunque ci fa lo sconto. Non trova che sia così. Adesso qua apriremo un dibattito che magari con stamattina non c'entra nulla, però lì c'è poco da fare, Monti, se noi non cambiamo anche la nostra testa, non trova? No, trovo, perché io per esempio pago tutto col banco, ma appunto, non io trovo lo stesso. Nessuna difficoltà a farlo. Infatti, certo, che se la cosa non è resa obbligatoria al di sotto di una certa soglia, certo. La gente continua a pensare. Lo so, però se viene l'elettricista a sistemarle le prese di corrente a casa e le dice: questo costa 300 euro se ti faccio la fattura e se mi fai magari il bonifico, ma senza tutto questo ti faccio pagare 100 euro, io voglio vedere quante persone, soglia non soglia, cambiano atteggiamento. Ma il supermercato non possono Lo so, però non si fa tutta insomma. No, ma Wanda, guardi, con me sfonda una porta aperta, io condivido pienamente quello che dice. Detto questo, qua è anche questione di testa e Monti potrà prendere atto anche di questo. Comunque grazie, Wanda, vorrei tornare ai BTP. Davide Pasquali, presidente di Farus SICAV, lei che un anno e mezzo fa sul titolo di Stato italiano aveva, come dire, una visione, chiamiamola così, non proprio ottimista. Oggi un pochino il mercato le ha dato ragione, perché la Grecia e tanto altro ancora ci ha portato alla giornata di ieri. Lei oggi che cosa ha fatto? Ha sposato anche lei l'atteggiamento, la proposta, la campagna di orgoglio nazionale dell'imprenditore toscano, riproponendo ai clienti che segue di ritornare sul titolo italiano, oppure sta ancora lontano? Ma in parte sì. Abbiamo sposato questa iniziativa valutando il premio per il rischio, perché riteniamo che a questi livelli ci sia il rendimento adeguato alla situazione finanziaria dello Stato italiano. In più si aggiunge, diciamo, la novità di un probabile governo tecnico. Quindi noi abbiamo incominciato a pensare che sarà inevitabile di avere un governo tecnico, e se sarà presieduto da Monti, tanto meglio. E quindi abbiamo incominciato a pensare che gli investimenti in titoli di Stato, ahimè, per adesso sul breve termine. Ecco, infatti è lì che volevo andare a parare, quali? Esatto. Noi abbiamo incominciato con prudenza, perché adesso non, di fatto ancora non è cambiato niente, quindi da un mese o due mesi fa ad oggi non è che le situazioni siano migliorate, anzi sono solo peggiorate. Però intravediamo nel breve quella novità che potrebbe far cambiare, sicuramente non in una settimana, neanche in un mese, ma nel giro di mesi, potrebbe far cambiare il sentiment che si ha in questo momento all'estero nei confronti dell'Italia, vedendo delle misure immediate che solo un governo tecnico può ovviamente attuare in Italia. Quindi insomma anche lei si muove sulla base dello scenario politico che matura di ora in ora? Sicuramente sì, perché purtroppo l'Italia ci ha abituato a vivere le cose in questa maniera. Si parla tanto di Monti, però già si vede che alcuni partiti non sono d'accordo, o addirittura all'interno del PDL c'è una frangia che non ne vuole sentir parlare. Quindi insomma si dovrà coalizzare una sorta di partitone che dia supporto a Monti per far sì che si incomincino ad attuare quelle misure che devono essere immediate e oserei dire anche drastiche. L'emendamento, il mega emendamento pronunciato nei giorni scorsi, insomma, da quel che si può capire. Sì, vabbè, Pasquale, tanto sono cose che leggiamo sui giornali. A me interessava capire adesso, ecco, se il suo atteggiamento rispetto ad un anno fa fosse cambiato, fosse migliorato, fosse peggiorato, se quello che è successo in questi giorni. Nel breve termine, senz'altro sì, abbiamo comperato BTP a scadenza marzo-aprile e nei giorni scorsi l'abbiamo fatto anche tutt'oggi. Ci aspettiamo poi di valutare le manovre che verranno effettuate per spostare anche l'interesse su titoli di Stato a più lunga scadenza, ma al momento direi che ancora siete non lì, è alla finestra. Grazie a Davide Pasquali, volevo salutare anche Luca Felli, responsabile bond e valute di Prima SGR. Felli, io tra l'altro devo di nuovo fare una pausa tra un attimo, quindi non la faccio iniziare per niente a parlare. Vorrei che lei mi raccontasse cosa è successo ieri nelle sale operative, se stamattina c'è un po' più di tranquillità. Ieri ad un certo punto il mercato era paralizzato, domanda ed offerta non si incrociavano per niente, pertanto evidentemente il mercato richiedeva rendimenti talmente alti che insomma addirittura non c'era nessuno che voleva liberarsi delle sue posizioni. Detto questo, anzi no, che molti volevano liberarsi delle proprie posizioni. Cogliamo anche ancora un po' le sensazioni dei nostri ascoltatori. Antonio da Salerno, buongiorno. Buongiorno a lei. Ci dica. Io una domanda e un'altra cosa. La domanda è un povero gentilizio. Antonio, guardi, mi scusi, stamattina veramente non riusciamo, non sento bene la telefonata, è disturbatissima, la faccio richiamare dal mio collaboratore. Andiamo a Franco da Brindisi. Franco. Buongiorno, buongiorno. Grazie di esistere, perché io sto in campagna, ascolto sempre la vostra radio. Ma che bello, ma lei non è un po' protetto, non è un po' tranquillo a tutti questi scossoni in campagna, a Brindisi, ci sarà anche il bel tempo, per no? Adesso c'è il sole. Meno male. Vedo dei nuvoloni che salgono. Però, anche nei suoi risparmi, no? sì, ecco, questo volevo dire. Io alcuni risparmi sono scaduti adesso, poi sono andato in pensione, io comunque sono stato uno dei pochi fortunati, con 41 anni di lavoro, i politici vanno con molto meno. Io quindi vorrei dire questa cosa. La banca rimarca come se fossi Messi, l'attaccante del Barcellona, cioè rimarca proprio a vuoto. Devono fare raccolta adesso, Franco, quindi so. È tutto, paura, come dire, grasso paura, che cola. I piccoli risparmiatori siamo no, noi, cioè, però abbiamo tanta paura, io e pure mia moglie, e non so cosa fare. Questi ogni volta che vado a ritirare la pensione, vengo due o tre persone insomma a bloccarmi, insomma, come se fossi un attaccante pericolosissimo. Infatti, quindi, Franco, allora guardi, adesso le faccio fare magari una piccola così analisi anche dal nostro promotore finanziario, da Giancarlo Magri, se non altro per permetterle di affrontare serenamente il colloquio con la banca, che comunque la stressa, la pressa, è ovvio, perché vede questa liquidità che magari questa persona ha accantonata nel conto corrente, quindi vorrebbe ovviamente magari poterla gestire diversamente. Prima però vorrei andare da Luca Fer. Felli, la puntata ci è scappata di mano, Felli, per cui le chiedo un po' di sintesi molto gentilmente, anche se avevamo in mente di così magari spiegare anche altre cose. Cosa succede in queste ore nelle sale operative? Cosa è successo ieri? Stamattina c'è una situazione più tranquilla. Cosa hanno fatto concretamente i gestori nelle ultime ore, quelli che devono scegliere che titoli di Stato mettere nei portafogli dei fondi monetari, perché sono soprattutto quelli che hanno questa composizione, e insomma vi siete anche un po' irritati, spaventati anche voi ieri, oppure insomma siete riusciti a mantenere la calma in un momento in cui il mercato era ingessato? Guardi, buongiorno a tutti innanzitutto. Ieri sicuramente c'era panico nelle sale operative, il panico era generato soprattutto all'inizio dalle voci su chi stava vendendo, perché si parlava di operatori francesi, poi si sono aggiunti, chiaramente queste sono supposizioni, anche operatori italiani, ma quello che faceva più paura era l'assenza, anche nei giorni precedenti, di un supporto, direi franco-tedesco, ma in generale europeo, all'Italia, e soprattutto la Banca Centrale Europea che continua, sì, interveniva, ma con importi direi assolutamente poco efficaci. Quindi naturalmente quello che bisogna fare, quello che fa un gestore in questi momenti è innanzitutto è stare calmo il più possibile e poi ragionare un po' su quello che pensa dell'Italia. Io continuo a pensare che l'Italia non è insolvente, quindi, cioè non ha un problema di ripagare il proprio debito, quindi siamo di fronte ad un grave problema di credibilità e quindi anche ad un problema di liquidità. In questi casi secondo me un gestore razionale affronta questi periodi cercando di diversificare il portafoglio, quindi magari aggiungendo un po' di Germania nei portafogli che hanno già l'Italia, oppure dove può, perché non tutti i fondi possono farlo, magari diversificare non solo in paesi come l'America, quindi i treasury americani, che sembrano essere comunque un porto sicuro almeno per adesso, e dove si può, e questo è un consiglio che do a tutti gli ascoltatori, diversificare i portafogli con una piccola percentuale di esposizione valutaria. Avere un po' di dollari in questi periodi fa sempre bene e protegge, e protegge i portafogli. Ecco, tra l'altro vedo anche i nostri ospiti che annuiscono su questa indicazione che ci ha dato, mentre lo spread in questo momento viaggia sui 526 punti base, così anche per continuare a monitorare appunto l'andamento del mercato. Felli, grazie per essere stato con noi, tra l'altro vi devo salutare rapidamente perché tra un po' chiudo, mi interessa adesso invece guidare le scelte delle persone. Allora, Franco da Brindisi è andato in pensione, a questo gruzzoletto tenta di goderselo appunto nella sua campagna, Giancarlo Magri, la banca lo pressa, è inevitabile, magari gli vorrà collocare qualche bella obbligazione bancaria, giustamente le banche devono fare raccolta, se no non riescono a fare credito alle aziende o anche a chi va a richiedere il mutuo. Cosa deve fare Franco? Allora, direi che prima cosa dovrebbe sedersi con calma, spiegare quali sono le sue esigenze su quei soldi, quindi fra quanto ne ha bisogno, cosa intende fare, eccetera. Farsi fare una proposta, portarla a casa, mettersi con calma, rileggersela e analizzare, cercare di capire quello che hanno proposto, quindi non fermarsi mai alla prima proposta, perché solitamente se vado in un negozio la prima cosa che mi propongono è quella che scarto. Quindi magari il tema è che intanto Franco deve capire se questo gruzzoletto gli serve per integrare la pensione che prendo, oppure può lasciarle ai figli fra qualche tempo, quindi già gli obiettivi sono completamente diversi. Cioè, fondamentale questo, poi a quel punto decidere dove allocare il risparmio, quindi potrebbe essere il titolo di Stato, potrebbe essere il bond bancario in base ai rischi, eccetera. Potrebbe essere anche un fondo obbligazionario misto, o anche un bilanciato moderato. Cioè, la cosa che deve esprimere lui, deve dare alla sua banca, al suo consulente, che cosa intende fare, che cosa voglio. Quindi, se voglio tutelare il mio patrimonio, quindi la fondamentale non mettere a rischio nulla. Quindi, a questo punto, magari anche il titolo di Stato rappresenta un rischio. E da lì farsi fare una proposta, portarsela a casa, rileggerla con calma e poi decidere come muoversi. Magari risentire anche un'altra banca, perché non direi è detto che l'interlocutore unico ci dia tutto il ventaglio di ipotesi possibili su come collocare il nostro risparmio. Cioè, la cosa incredibile, l'italiano medio, quando vuol comprare la macchina, inizia 6 mesi prima a comprarsi 4 ruote, fa il giro di 15 concessionari, si fa 15 preventivi, per andare a risparmiare magari 50 o 100 euro, va a gestire i propri risparmi, entra al primo sportello, si ferma alla prima proposta. Cioè, direi di usare lo stesso criterio che l'italiano medio usa quando compra la macchina, cioè magari comprarsi anche il sole al sabato, faccio pubblicità, visto che comunque... Stiamo facendo una bella campagna adesso di divulgazione anche Moria per spiegare bene i termini dell'economia, insomma, quindi anche il sole si sta cimentando in un'operazione di educazione finanziaria, adesso non è per tirare acqua al mulino, però molti giornali per la verità lo stanno facendo, è necessario. Cercare di usare la stessa attenzione che quando si acquista un'automobile, nel gestire i propri risparmi. E infatti. Allora, tra l'altro, adesso sentiremo anche altri ascoltatori. Tra gli altri segnali carini che questa mattina il mercato ci sta dando, perché anche queste notizie bisogna darle, oggi c'è una società che ha avuto il coraggio di quotarsi a Piazza Affari. Terni Green è una società attiva nel settore recupero rifiuti. Al primo giorno di contrattazioni sta salendo, adesso ve lo dico, vediamo se mantiene ancora questo rialzo. Per la verità bloccata da un po', probabilmente per eccesso di rialzo, del 17%. Moria, questo ancora una volta ci testimonia che l'Italia non è la Grecia. No, l'Italia non è affatto la Grecia. L'Italia è un tessuto imprenditoriale, un tessuto economico che non è affatto quello della Grecia. Siamo la 7ª/8ª economia del mondo, non dobbiamo dimenticarcelo. Tra l'altro, se si guardano anche i fondamentali economici dello Stato italiano, a parte questo gigantesco debito pubblico che proprio è come un pugno nello stomaco, chiunque lo guardi, tutto il resto siamo per molti versi migliori sicuramente della Francia, ma per alcuni versi anche migliori della stessa Germania. Abbiamo un risparmio privato altissimo, la ricchezza delle famiglie, faccio un confronto, uno studio recente del Credit Suisse diceva che in Italia la ricchezza pro capite delle persone è di 183.000 euro, considerando sia gli immobili sia le attività finanziare, in Spagna di 80.000 euro, quindi siamo 100.000 euro in più. Abbiamo le imprese meno indebitate, abbiamo le famiglie meno indebitate, il debito totale in Italia, considerando il pubblico e il privato, è inferiore a quelli di tantissimi altri paesi europei, inferiore alla media europea, quindi non siamo la Grecia. E questo evento di oggi della società che si quota lo testimonia. Abbiamo un tessuto imprenditoriale che c'è, è per quello che non bisogna mollare, non bisogna lasciar prendere i mercati dal panico, perché noi ci siamo. E infatti lo scatto di orgoglio nazionale lo dovremmo avere anche tenendo in considerazione tutti questi aspetti. Stamattina ci hanno chiamato davvero decine di ascoltatori. Io volevo ricordare, anticipare che stiamo organizzando per la prossima settimana una giornata di filo diretto con gli ascoltatori per appunto mettervi a disposizione anche in qualche ora del pomeriggio alcuni consulenti che vi possano rispondere ai vostri dubbi, che possano rispondere alle vostre domande su come gestire al meglio questo momento delicatissimo. Poi vi darò nei prossimi giorni tutti i dettagli di questa iniziativa, però tenete il motore caldo. Non riesco a sentire più nessun altro ascoltatore. C'era Marina da Roma che ci voleva chiedere: a liquidi sul conto corrente, chi ha più di 100.000 euro cosa deve fare e quali garanzie? Li deve tenere lì se non vuole investire in altri prodotti di investimento. Le banche non falliranno, state tranquilli. Moria Longo, 30 secondi. No, volevo soltanto dire che il fondo interbancario oggi sul Sole 24 abbiamo 4 pagine proprio per rispondere a questo tipo di domande, con dettagli tecnici, non solo di opportunità di investimento, ma anche legali, cioè cosa rischio se, cosa succede se, eccetera, eccetera, anche dal punto di vista anche poi della dichiarazione redditi legali, eccetera, eccetera. Mm-hmm. Per cui 4 pagine proprio che si affrontano tutti i settori di investimento. Armando da Firenze voleva chiedere: meglio botto, obbligazioni bancarie? Sono due cose molto diverse, ognuno ha un rischio diverso. In più c'era un ascoltatore, io Bruno da Teramo, se lei ci vuole scrivere ci terrei molto la sua domanda, perché le faccio fare una risposta a Giancarlo Magri. L'ascoltatore ha un nipotino, un BTP che scade nel 2021, come si deve comportare? Quindi ha un risparmio evidentemente destinato al suo nipotino, alla sua famiglia. Mi devo fermare perché come sentite è arrivata la crisi. Grazie a Moria Longo, Giancarlo, la crisi, cosa ho detto? La sigla, che siamo in crisi proprio anche di testa qua. È tutto, a domani.